quasi tutti i programmi televisivi, i talk show, dipingono un paese sull'orlo del baratro, un paese con milioni di famiglie che non arrivano alla terza settimana. Tempo si diceva la quarta, adesso neanche Neanche alla alla terza, in terza. sostanza un paese disperato, eccetera. Ebbene, questo contrasta con quello che noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Qualsiasi weekend, qualsiasi festa, non si riesce a circolare sulle strade perché sono tutti a spasso. Cioè, dice Provi tutti in lei ferie, a quindi. vedere per strada se trova qualche morto di fame, cioè se il paese fosse quello che viene descritto, noi la mattina uscendo di casa dovremmo scavalcare almeno qualche cadavere morto di fame, no? No, capito, però detta Questo così, non insomma, sembra avviene. che non ci siano persone che perdono il posto di lavoro, Ci questo. sono persone che perdono il posto di lavoro e ne trovano un altro, chi non lo trova è perché non lo cerca o perché non lo Perché vuole. non lo Tanto è cerca? vero che abbiamo 5 milioni di stranieri che lavorano qui e evidentemente quei 5 milioni fanno dei lavori, dei mestieri che noi non vogliamo fare, quindi non è vero che non ci siano posti di lavoro, non c'è la voglia di fare certi lavori e ho anche elencato nell'articolo incriminato da Travaglio una serie. Quali lavori, per esempio? Beh, per esempio gli infermieri. Lei sa che un terzo degli infermieri che lavorano in Italia viene Sono dall'estero. stranieri, sì. Questa è la dimostrazione. Poi non c'è un pizzaiolo che non sia egiziano ormai. E se lei, che so io, va Beh, adesso in un ci sono, ristorante, se si... trova camerieri serbi, trova gente che non è sicuramente italiana, insomma, questo che cosa I vuol dire? camerieri e i pizzaioli Ah, non mi vogliamo che scusi, fare. no, ma No, poi se no. mi fa concludere il concetto è meglio. Ci sono per esempio le associazioni degli artigiani, Sì. recentemente hanno chiesto di pubblicare una notizia ed è la seguente, si cercano 50.000 persone che siano disposte a imparare un mestiere, falegname, tappezziere, idraulico, e nessuno si presenta a fare questo. Per il Le fatto che... cito un caso clamoroso, Sì. Napoli, Marinella, quello che fa Le le cravatte, noto in cravatte di tutto il mondo, Marinella. cercava 25 persone disposte a imparare a Napoli a fare le cravatte e non le ha trovate. E ricordo che noi abbiamo fatto un fogliettone perché la cosa ci sembrava quantomeno curiosa. Non è forse Napoli la città dove si piange la disoccupazione? E benissimo, e allora Cioè, chi non 25. trova lavoro è perché non si mette sul mercato, non lo cerca, non vuole fare anche lavori umili. Ma è Senta. talmente evidente.